Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Non è possibile in nessun modo che nei comuni non venga applicata la legge, perché un ufficiale dell'anagrafe dello Stato civile dovrà comunque fare l'unione civile e queste saranno possibili a partire dal 15 agosto. Quindi già da domani i sindaci prendano le prenotazioni, arriverà in questi pochi giorni la modulistica dal Ministero degli Interni e finalmente da Ferragosto confetti arcobaleno per tutti. Buonasera a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ciao. Si può fare 18:30 fino alle 20, 800 24 00 24, per stare insieme con i vostri interventi. L'Italia cambia nonostante tutto, cambia nonostante il parere non favorevole di alcuni sindaci della Lega, che avevano detto obietteremo contro la legge sulle unioni civili, ma questa obiezione non varrà, perché oggi il Consiglio di Stato lo ha detto chiaramente: qualunque ufficiale civile può officiare e registrare le unioni civili sull'apposito registro. Quindi se qualche sindaco se lo sente di farlo, può tranquillamente non farlo, ci sarà qualcun altro al posto suo. Nelle parole del Presidente del Consiglio di Stato, Frattini: gli ufficiali di Stato civile sono tanti, non sono solo i sindaci, quindi se c'è un sindaco che ha un proprio problema personale, delega un qualsiasi consigliere comunale e il diritto è ugualmente riconosciuto. Si può delegare anche un privato a cui viene conferita la funzione di Stato civile ad hoc, come avviene per i matrimoni. Più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, e continuiamo così. Allora, invece, sentiamo sulla riforma della Costituzione, si continua a discutere. Sentite Fico del Movimento 5 Stelle. Per andare tutti quanti a votare, voto sì, ma io no, per vedere come cambia col referendum, oppure votare no e dirlo a Renzi e vedere di nascosto la Boschi che fa voti sì, ma io no, voti sì, ma io no, voti sì, ma io no. Ma perché? Perché no. Ma perché lo diciamo noi a Fico? Perché fare una performance così? Che senso ha? Cosa serve? Pur di prendere qualche voto in più, sicuramente la simpatia di Fico stonato, che credo fosse Radio Rock, ha messo in scena questa canzoncina sul perché votare no. Un argomento lo fornisce anche Andrea Scanzi. L'articolo 70 è lineare allo stato attuale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Quante parole sono? 9. In questa pseudo-riforma diventano 439 parole, che genera una sorta di supercazzola collettiva. Arrivi alla fine e non ci hai capito niente. Se io avessi scritto una cosa del genere in prima elementare, la mia maestra mi avrebbe preso qui e mi avrebbe detto: guarda, scompari, Scanzi, perché sei assolutamente un incapace. Questo è possibile, questo è un argomento possibile. Certo, se vuoi riformare la Costituzione partendo da un articolo di 9 parole che dice la funzione legislativa è esercitata dalle Camere e vuoi abolire una delle Camere, potevi semplicemente dire è esercitata dalla Camera, ma probabilmente non era tutto così semplice. Dai Scanzi, non era tutto così facile. Certo è che, per esempio, oggi sul Corriere si evidenzia come il nuovo codice degli appalti sia stato rimandato indietro, riscritto tutto, perché su 220 norme c'erano 180 errori. Errori di grammatica, errori di ortografia, errori di rimando a articoli del codice. Un vero e proprio capolavoro di strafalcioni. E quindi è facile dire che questo governo e questo Parlamento commettono qualche passo falso su questo fronte. Sentiamo invece su Roma la Meloni, sui Centurioni. L'iniziativa l'ha annunciata ieri il sindaco Raggi, tra l'altro sul Movimento 5 Stelle c'è da dire anche di Torino, tra poco, un'apparente crociata dopo i vegani contro il wifi. Però adesso Roma con la Meloni. Mi pare che si facciano delle iniziativine, appunto spot, modello, questa sui centurioni, e però obiettivamente, insomma, rispetto alla rivoluzione che ci si aspetta da un sindaco 5 Stelle eletto dal 70% dei romani, sono un po' di piccolo cabotaggio. Ora Meloni, aspettiamo un attimo però, perché qua la Raggi è arrivata da una settimana, quindi piccolo cabotaggio, vedremo, diamogli il tempo, come si diceva, diamogli il tempo di esibirsi. A Torino polemica un'altra. Dopo la questione della dieta vegana, che farebbe in qualche modo parte del programma, che fa in qualche modo parte del programma del Movimento 5 Stelle a Torino, scoppia un caso sul Wi-Fi, perché Repubblica di Torino scrive: la sindaca Chiara Appendino prospetta anche di spegnere gli impianti Wi-Fi che considera potenzialmente pericolosi per la salute. Ora, siccome non ci sono evidenze da nessuna parte scientifica che questo sia vero, è un'accusa abbastanza pesante. Replica del sindaco Appendino su Twitter, che dice: costruire un sistema a banda larga su tutta la città, questo dice il mio programma pagina 58, mai parlato di wifi nocivo. E lo manda a dire a Repubblica di Torino. Scambio di accuse. Adesso cosa ci abbiamo da sentire? Sì, sulla Turchia. Io cancellerei subito oggi pomeriggio qualsiasi tipo di relazione politica, commerciale con la Turchia, che è in mano a un pericoloso dittatore. Quindi come Italia, come Europa, non vorrei avere niente a che spartire con Erdogan e con la Turchia. Buonasera Lily Gruber, ciao, benvenuta. Buonasera. Ciao, ti abbiamo strappato in qualche modo dalle vacanze dopo una stagione impegnata tutte le sere in TV. Lily, tu hai scritto un libro quest'anno, Prigionieri dell'Islam, terrorismo, migrazione, integrazione, quel triangolo che cambia la nostra vita, dove parli dell'Islam, della paura che fa, perché c'è il terrorismo di matrice islamica, ma anche della paura che c'è a volte ingiustificata, no? Dei pregiudizi, un viaggio per capire veramente la realtà in Italia dell'Islam. Ci sei sembrata la persona giusta in questo momento per parlare di quello che sta succedendo anche in Turchia, dove ci sono azioni e reazioni, il colpo di Stato, qualcuno dice il vero colpo di Stato è in atto adesso con la reazione di Erdogan, molto pesante, non si capisce quasi più nulla, c'è molta emotività. Intanto ti voglio chiedere, facciamo un passo indietro, no? Questo viaggio che hai fatto nell'Islam in Italia, che cosa hai capito, che cosa hai scoperto? Ma facendo questo viaggio attraverso l'Islam in Italia ho scoperto nulla di nuovo, nulla di cose che già non, in qualche modo, non sapessi o non sospettassi anche. Questo non è, Prigionieri dell'Islam non è un libro buonista, ma è un libro che cerca di far capire come noi siamo prigionieri dell'Islam, perché siamo vittime spesso della nostra ignoranza e dei nostri pregiudizi, e loro sono troppo spesso prigionieri di una interpretazione del Corano troppo retrograda, troppo oscurantista. Però siccome vengono sempre più migranti dai paesi musulmani, noi non possiamo che confrontarci con loro. Certo. Per non temerli dobbiamo conoscerli meglio, e certo che anche in Italia abbiamo tanti Islam diversi, e sicuramente è presente anche quello più retrogrado, quello per esempio che vuole relegare le donne nelle loro case, quello che non vuole far rispettare i diritti delle donne. Siccome io penso che la democraticità di un paese, di una popolazione, di una comunità si misura anche in base e soprattutto in base al rispetto dei diritti delle donne, credo che su questo fronte i musulmani d'Italia abbiano da fare ancora un grande lavoro, e penso anche che gli imam, che sono per la stragrande maggioranza dei musulmani anche in Italia il punto di riferimento più importante, abbiano sempre di più il dovere di esercitare un controllo sulle loro comunità, perché se no la convivenza diventa molto molto difficile. Ecco, questa questione per esempio dei diritti delle donne, anche a me è capitato, parlando, intervistando delle donne musulmane, sentirmi dire non è tanto un problema di religione islamica quanto tante volte un problema di origine dal paese da cui si arriva. Ci sono paesi più retrogradi, è quindi un problema anche di una retratezza culturale, come dicevi anche tu. In questo quadro la Turchia, cioè, tu hai viaggiato molto, hai conosciuto, tra l'altro poi mi pare a un certo punto hai intervistato anche il presidente Erdogan. La Turchia come si collocava fino a ieri in questo quadro? Diciamo, da una parte mettiamo la maggiore arretratezza e quindi minori diritti, per esempio per le donne un oscurantismo maggiore, e dall'altra invece un Islam moderato, laico e tollerante. Come si collocava fino a prima del colpo di Stato la Turchia secondo te in questo quadro? Ma diciamo che la Turchia, da quando ha vinto la prima volta le elezioni Erdogan nel 2002, ha sicuramente vissuto una islamizzazione continua. C'è chi pensa che adesso, dopo questo putsch, questo golpe fallito, sia in corso in realtà un'islamizzazione autoritaria del paese, e quindi la situazione è molto molto pericolosa. Per quanto riguarda la situazione delle donne, sulla carta c'è una legislazione molto avanzata sulla parità delle donne in Turchia, ma nelle stazioni di polizia, nelle aule di tribunali la prassi è molto diversa, e in Turchia la Turchia resta una società ancora molto patriarcale, perché magari molti di noi conoscono Istanbul, che è una città cosmopolita, che dà un'impressione invece tutt'altro, aperta, occidentale, certo, cosmopolita, ragazze poi, senza velo. Come sempre, sì. E come dicevi anche tu poco fa, c'è una parte di società che è legata appunto alla cultura patriarcale, e quella è più difficile ed è più chiusa a possibili cambiamenti, soprattutto anche per quanto riguarda i diritti delle donne. E quindi io, da quello che leggo, da quello che sento, diciamo che le donne laiche o le donne che in Turchia hanno a cuore i loro diritti sono molto molto preoccupate, anche perché negli ultimi anni, intanto perché sappiamo cosa pensa Erdogan delle donne, cioè sul ruolo che devono avere nella società. Beh sì, a livello di dichiarazioni è stato spesso piuttosto pesante, dicendo intanto pensa che l'aborto sia uguale a un omicidio, poi pensa che le donne devono avere almeno 3 figli, poi pensa che le donne non possano assolutamente svolgere gli stessi impieghi, gli stessi lavori degli uomini, perché sono troppo diverse. Poi ricordiamoci che il turban, che sarebbe il velo, il fazzoletto islamico, e la legge che lo vietava dagli anni 20, da quando è andato al potere Atatürk, che ha creato lo stato laico turco, lui ha annullato il divieto di portare però il velo. Però questa cosa qua, no? Certo, però che era una forma di laicizzazione addirittura più estrema che non in Italia. Da noi il velo non è vietato, in Turchia era vietato, lui ha reintrodotto una possibilità, non è che lo ha reso obbligatorio. Questo forse bisogna chiarirlo meglio, perché sennò sembra Certo. No. Allora, intanto, quando parliamo di velo, parliamo non del niqab, quindi non del velo integrale che nasconde anche il volto delle donne, parliamo di quello che nel mondo arabo si chiama il hijab, quindi il fazzoletto in testa che lascia scoperto il volto. Il fatto, io ho incontrato, quando sono andata anche nel 2002, nel 2003 in Turchia, tantissime giovani ragazze che frequentavano l'università e che non potevano mettersi il fazzoletto in testa per andare nell'università, perché c'era una legge che lo vietava, che semplicemente per contestare questo divieto provavano a metterselo, al di là del fatto che molte giovani donne, per motivi religiosi, pensano che devono coprirsi il capo. Quindi che io, questo lo penso anche per i nostri paesi europei, quindi anche per l'Italia, penso che non ci debbano essere divieti sul fatto di portare il fazzoletto in testa, penso che ci debba essere il divieto sul fatto di coprirsi integralmente. Quello sì. Ma è vero che tu hai conosciuto Erdogan, l'ha anche intervistato? Sì, quando ha fatto la sua marcia trionfale verso la vittoria, verso la presa del potere. Ho anche parlato con sua moglie, allora poi c'era anche il presidente Gül con sua moglie, due donne che allora ci sembravano comunque molto moderne, anche se portavano il fazzoletto in testa, portavano però dei foulard firmati, si dicevano sembravano molto e questa parola già ce la dice lunga. Lilli, resta con noi, se hai ancora un attimo facciamo una piccola pausa per il traffico, poi ci dici che impressione ti ha fatto lui, cosa pensi oggi di Erdogan, se è ancora una persona lucida. Qualcuno parla di delirio di onnipotenza, il che naturalmente è possibile. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Tra poco stiamo parlando con Lilli Gruber di quello che sta accadendo non solo in Turchia e di Erdogan in particolare. Allora, lui è stato sindaco di Istanbul. Ha racconti che io mi sono sentito fare, ha portato l'acqua pubblica, la gente gli è riconoscente. Ha guidato la Turchia in un momento di grande crescita economica, tutto sembrava che volgesse per il meglio. Poi la deriva, il cambiamento, il delirio di onnipotenza. È un uomo lucido secondo te ancora oggi Erdogan, o sta prendendo veramente una piega da delirio di onnipotenza? Penso più che sia vera la seconda che hai detto. Credo, non so se soffre di un delirio di onnipotenza, sicuramente la strategia di Erdogan è oggi quella di una presa totale del potere, lo vediamo da tante decisioni che ha preso, non solo queste dopo il putsch, ma anche quelle che ha preso prima, la guerra alle minoranze, in particolare ai curdi, la sua strategia molto ambigua nei confronti dell'ISIS, quindi anche nella politica estera. La Turchia ci sembra un paese col quale abbiamo sempre meno da condividere, anche noi europei. Molti di noi pensavano che la Turchia forse l'avremmo dovuta avvicinare di più all'Unione Europea, proprio per tenerla, diciamo, nel campo occidentale laico. Io penso che dopo questo golpe, che è fallito, ma è fallito, mi chiedo, mi sembra mica tanto se osservo le conseguenze. Cioè, il vero golpe non è fallito, il vero golpe, cioè la reazione di Erdogan, che aveva già pronte le liste, sicuramente, perché migliaia. Esattamente, le liste di proscrizione, evidentemente, per fare tutte queste purghe erano già belle pronte, sono state arrestate decine di migliaia di persone che non sapremo neanche che fine faranno, quindi sono d'accordo con chi pensa che stiamo assistendo alla liquidazione dello Stato di diritto, e quando succede questo, quando i diritti non vengono più rispettati, dai diritti umani fino ai diritti delle donne, non esiste più la democrazia. Allora tanti turchi pensavano, ma forse è meglio avere una cattiva democrazia, Erdogan non sarà la perfezione, però meglio una cattiva democrazia di una dittatura militare. È ancora così? Io credo di no, e come me la pensano naturalmente tantissimi turchi, che soprattutto quelli che nel 2013, vi ricordate, fecero parte della rivolta popolare per protestare contro il crescente autoritarismo. Sì, ma secondo te a questo punto, tipo oggi la Casa Bianca ha detto che, insomma, ha invitato la Turchia a rispettare le istituzioni democratiche, Trump ha detto che se diventerà presidente non interverrà, per esempio, tanto per dirne una, in quello che accade in Turchia, cosa dovrebbero fare i paesi democratici, l'Occidente, l'Europa, l'Italia di fronte a questa involuzione? Che tipo di messaggio, cosa è possibile fare secondo te? Allora, una cosa è la strategia dell'Unione Europea e dei singoli stati membri, un'altra cosa quella americana. Non dimentichiamoci che gli americani hanno grossi interessi strategici e geostrategici in e con la Turchia, c'è un'importantissima base NATO, è un paese sul quale gli Stati Uniti si sono sempre molto appoggiati. L'Unione Europea mi sembra che sia un po' ostaggio di Erdogan e della Turchia di oggi, perché non ci dimentichiamo che abbiamo fatto un accordo per noi importantissimo sui migranti, tant'è che questo rubinetto delle immigrazioni Erdogan lo può aprire e chiudere diciamo a suo piacere. E questo secondo te non consente alle cancellerie adesso di esprimersi liberamente, di dire e di avere un punto di vista netto? No, naturalmente ufficialmente tutti dicono che Erdogan deve rispettare lo stato di diritto, i diritti umani, i diritti delle donne. Poi nella pratica è molto più difficile però essere credibili con lo stesso Erdogan, perché abbiamo anche noi troppi interessi in ballo, quindi sarà difficile trovare una strategia che riesca a difendere diciamo lo stato di diritto e anche i nostri interessi, che in questo momento, parlo di quelli degli europei, sono principalmente concentrati sulla questione dell'immigrazione, che come tutti sapete è una questione cruciale per vincere o perdere le elezioni per tutti i politici ormai in Europa e anche per quelli americani. E quindi non lo so, sarà una fase delicatissima, con un equilibrio delicatissimo, e non sappiamo in realtà che fine potrà fare questa Turchia di oggi. Senti, un'ultima cosa voglio chiederti, tornando all'Italia, tornando anche al tuo libro, sei ottimista, resti ottimista sulla possibilità di una integrazione tra noi e gli immigrati islamici e la componente che ha questa religione in Italia, per esempio? Ma continuo a restare ottimista perché lo sono per natura e perché penso che se si scelgono politiche di accoglienza e di integrazione giuste si può fare. Voi siete una grazie, cioè, hai citato questa, la mettiamo nel promo tutta la vita, Lilly Gruber che dice si può fare. certo, si può, però bisogna sapere che noi abbiamo da difendere, difendiamo, ci siamo battuti per decenni per conquistare una serie di diritti e vogliamo che questi diritti vengano rispettati da tutti. Quindi non sarà una passeggiata dai musulmani. L'integrazione non sarà una passeggiata. E bisogna comunque, come già stanno facendo adesso i tedeschi, che quando arrivano i nuovi migranti li istruiscono non solo sulla lingua ma anche sulle usanze, sui valori, sulle leggi, sulla Costituzione. Io credo che questo noi lo dobbiamo fare in modo molto molto più intenso e molto più organizzato. Va bene. E poi dobbiamo essere, scusa, quest'ultima cosa perché mi sta molto a cuore, perché è una cosa che ho riscontrato anche nel mio viaggio attraverso l'Islam italiano in molti italiani e anche nelle giovani generazioni, che non abbiamo tanto chiaro quali sono i nostri valori non negoziabili. Io li so quali sono, però non per tutti gli italiani è così chiaro, e noi dobbiamo aver chiaro quello che dobbiamo difendere fino alla morte, mi verrebbe da dire, e a quel punto saremo anche in grado di pretenderlo da chi è diverso da noi e chi però vuole integrarsi. Se non si vuole integrare lo dovrà fare lo stesso, perché noi abbiamo una Costituzione, abbiamo delle leggi, abbiamo dei valori nei quali crediamo e per i quali ci siamo battuti per secoli. Libertà potrebbe essere democrazia. Libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti delle donne, rispetto dello Stato di diritto. Abbiamo alcuni pilastri sui quali non siamo disponibili a andare indietro. Grazie. Grazie Lilly Gruber, grazie, buone vacanze. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio, più tardi. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Un Un omaggio a Gary Marshall, il regista di Pretty Woman, scomparso a 81 anni. Pretty Woman, Julia Roberts, la protagonista del film, che naturalmente faceva il mestiere più antico del mondo. L'ultima crociata contro la prostituzione arriva da un onorevole del PD, Caterina Bini, che ha prima firmataria di una proposta di legge che mira a multare fino a 10.000 euro chi non solo i clienti delle lucciole, naturalmente, e insomma compagnia cantante. Una proposta di legge che giace in Parlamento. Tra le tante, lei, l'onorevole Bini, ha reso pubblica una lettera e un'email che ha ricevuta di un anonimo che dice: guarda, in Italia siamo 9 milioni di persone, non so come ha fatto a fare questa stima, di, possiamo dirlo, di puttanieri, insomma di gente che va con le prostitute. Se fai questa legge non ti votiamo più. E va bene, sentiamola Labini però. Io sto parlando proprio del fatto che bisogna estirpare il fenomeno alla radice, perché siccome l'80% di queste ragazze sono sfruttate, vogliamo prima analizzare questo problema? Ecco, analizziamo il problema, onorevole Bini, perché se il problema è lo sfruttamento o estirpare il fenomeno alla radice, sembra di dover curare un tumore. Sono due cose diverse, perché per curare il tumore alla radice non è ancora stata inventata la cura per estirpare il fenomeno della prostituzione. Se invece si vuole togliere la prostituzione dallo sfruttamento, dal racket, eccetera, per esempio trovare delle forme di legalizzazione, che è il contrario di quello che dice lei, forse potrebbe aiutare. Questa è l'unica strada che si è tentata nel mondo per risolvere questo problema, che però lei dice no, non è questa la strada. Sentiamola. L'Olanda e la Germania, che hanno legalizzato il fenomeno, riaperto le case chiuse, tenuto i bordelli a luci rosse legalizzati, eccetera, non hanno assolutamente risolto il problema. Anzi, nei fatti questi bordelli e queste case chiuse sono comunque sempre gestiti dalla criminalità organizzata. Le tasse che vengono pagate sono poche, perché la prostituta poi alla fine non vuol dire che fa di mestiere la prostituta e non ha voglia di dichiararlo. Ma chi l'ha detto che le case chiuse e le prostitute ad Amsterdam sono sfruttate dal racket? Chi lo ha detto? Lo dice lei? A me non risulta, a me non risulta. Sentite invece che cosa dice il consulente di Donald Trump, Al Baldassaro, a proposito di Hillary Clinton. Hillary Clinton should be put in the firing line and shot for treason. Cioè, lei dice letteralmente: Hillary Clinton dovrebbe essere portata davanti a un plotone di esecuzione fucilata. Lo ha detto parlando a una radio. Naturalmente subito dopo lo hanno portato via, imbavagliato e ammanettato, e lo hanno rinchiuso in un manicomio criminale. No, non è finita così. Sarebbe, cioè, in un mondo normale doveva finire così. Invece no, è continuata l'intervista normalmente. Risentiamolo. Hillary Clinton should be put in the firing line and shot for treason. Fucilata per tradimento. Questo è quello che dice Al Baldassaro a proposito dell'apparentemente vuoto della convention repubblicana di Donald Trump. Ha fatto più notizia il discorso di sua moglie, qualcuno dice copiato, e in effetti le parole sono le stesse usate da Michelle Obama alla convention che lanciò suo marito Barack Obama. Ma del resto trovatemi voi una convention che non somiglia all'altra, democratica o repubblicana, da 30, 40, 50, 60 anni. Sono sempre appelli molto generici agli elettori e non si distinguono molto l'uno dagli altri. Ma su Trump sentiamo Briatore e Gino Strada, due opinioni naturalmente opposte. Io non so cosa ha fatto di scorretto Donald. Per me scorretto è chi è andato a buttare le bombe in Iraq, a Saddam Hussein, che lì è stato qualcuno di scorretto. Ma io credo che Donald per adesso non ha fatto niente di scorretto. Però dice per esempio che vuole alzare un muro tra l'America e il Messico. No, ma non farà mai questo. Non aprire più agli immigrati. Lui credo che queste cose qui, in una campagna elettorale devi dire qualcosa di diverso anche, no? Qualcosa, ci sarà magari una limitazione, ma non è che sia Donald è un pacifista, non è uno contro il mondo. Donald è un pacifista, non è male. Devo dire che oggi Donald Trump ha dato ragione a Briatore. non nel senso che ha detto Briatore ha ragione, ma nel senso che ha detto noi per esempio sulla Turchia non interverremo, non faremo niente, cioè è un modo per essere pacifista nel senso di farsi i fatti suoi. E comunque Briatore poteva inventarsene una migliore su Donald Trump, sicuramente ne avrebbe la capacità, perché dire che non ha fatto nulla fino ad ora, certo non è ancora diventato presidente, sono gli annunci che ha fatto, le dichiarazioni che ha fatto, alcune anche molto impegnative, che prefigurano quello che potrebbe fare. Gino Strada. Voglio dire, Trump mi sembra che rappresenti purtroppo meglio di altri l'americano medio, ma sottolineo questo purtroppo. Obama si è meritato il Nobel per la pace? Beh, non c'era quello per la guerra, hanno dovuto dargli quello per la pace, insomma. Va bene, la battuta di Gino Strada, pesante, su Obama, dice gli è andato il Nobel per la pace perché non c'era quello per la guerra, quindi insomma, fine di un idillio tra il popolo pacifista, il popolo che segue Gino Strada, la sinistra, eccetera, e Barack Obama, che chiude questi 8 anni di doppio mandato alla Casa Bianca un po' nel crepuscolo, sicuramente perché i tempi sono cupi, sicuramente, ma anche perché ha lasciato la sensazione di una delusione in molti suoi fan del passato. Giuseppe da Bari, buonasera. Buonasera a lei, finalmente non riesco a inspiccare questo mio pensiero. Venga, lo dica. Ho trovato lei, mi deve dare un qualche secondi in più. Sì, no, in più. Prende i secondi suoi, quelli normali, non quelli in più. E va bene, se me lo può permettere. Allora, premesso che io ero il responsabile alla mobilitazione, all'emergenza, alla regione Carabinieri Puglia, facevo i piani di mobilitazione all'emergenza, significa se c'era una guerra in atto, eccetera, eccetera. Adesso che sono in pensione, mi sta venendo un prurito buono, nel senso che, siccome siamo migliaia e migliaia, anzi, siamo quasi 300.000 in tutta Italia, non ancora con l'Alzheimer, in pensione, perché non attuare un piano di osservazione solo col telefonino, senza pistola, senza armi. Mi raccomando, senza pistola soprattutto, perché chiaro, i pensionati delle forze con la pistola in giro per strada, risparmiamoci. Quella di plastica ai nipotini è manco, e neanche. Volevo dire un'altra cosa. Vabbè, ma ci sono delle convenzioni, importa. Giuseppe, noi si può fare weekend, ne parliamo. Come esiste. No? Ce ne sono tante. Dove? Ma adesso non ne lo so dire esattamente, convenzioni dove le forze dell'ordine, carabinieri, polizia in pensione fanno incontri nelle scuole, qualche controllo davanti sempre alle scuole, cose di volontariato così, cioè non parliamo di cose di più. Quello per il traffico non c'entra, per attraversare sulle strisce, no. Io voglio parlare seriamente che siccome potrebbe, la parola potrebbe pesante però, succedere, per esempio al mio ipermercato qui in provincia di Bari, il più grosso che sta in Puglia, succedere che entri qualcuno con il fodero della chitarra e dentro Giuseppe, cosa mettiamo? I pensionati, cioè lei vuol dire che i pensionati potrebbe aiutare a prevenire un attentato terroristico? Ecco, osservare, essere acuti osservatori. E se uno vede uno con la chitarra che entra nell'ipermercato e dice: ma questo c'ha la chitarra o c'è Kalashnikov? Ho una grossa borsa, ho una signora col velo davanti, bella grossa. Però questo, robusta. Giuseppe, non glielo vieta nessuno di farlo già, cioè lei può andare libero, di sentirsi utile in questo senso, di stare in giro e controllare, guardare un po', se vede qualcosa che non va, fa un tweet magari. Ha detto che l'ipermercato non è pubblico, è privato. Se la vedono le guardie all'interno. Perché lei c'è stato di fronte all'ipermercato, ma l'hanno mandata via perché era privato? No, gliel'ho detto a chi di dovere, al numero uno, al primo cittadino, se si poteva fare sto fatto. Ma chi, qua. Di Bari, al primo cittadino di Bari, De Caro? Della provincia, della provincia. Della provincia, lei è andata a fare una proposta e le hanno detto che non si può, certo, perché le permette. No, va bene, ci riprovi Giuseppe, ci riprovi, vada avanti, non demorda, perché è giusto che le forze dell'ordine in pensione possano dare una mano, senza armi, senza fare più casino di quello che già c'è, però l'appello di Giuseppe perché non accoglierlo? Si può fare. Matteo dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera, aspetti che tolgo la voce. Bravo, benissimo. Se no lo richiamiamo dopo. Io sono un ragazzo di 33 anni che purtroppo ho sentito solo in parte l'intervento della Gruber, però ho sentito il finale. Ho sentito che in sostanza si tratterebbe di insegnare le leggi agli immigrati. Sì, lei ha detto, come fa la Germania, che in effetti gli immigrati che ospita nei centri di accoglienza li istruisce, li insegna la lingua, li insegna le leggi, eccetera, eccetera. Questo in effetti viene fatto. In Italia è previsto teoricamente, poi spesso i comuni non hanno i soldi per fare niente, nemmeno per fare corsi di italiano. Sì, io posso portare anche l'esempio del mio migliore amico che si è trasferito ad Augsburg in Germania e ha fatto un corso di tedesco per potersi, diciamo, Ma il tuo amico però, scusa, Matteo, il tuo amico non è un immigrato, è un profugo. No, non è un immigrato come quelli di cui parlava la Gruber, però qui il discorso è un altro, che noi dovremmo pensare prima che sono gli italiani a dover imparare le leggi. Io ho fatto l'università specialistica. Sì. Il diritto, io l'ho studiato solo all'università, sono uscito praticamente ignorante dalle scuole obbligatorie. Qui la questione è che prima devono essere insegnate le leggi agli italiani e poi ai migranti. Cioè, vale anche qua il refren, quello di Fratelli d'Italia o della Lega, prima agli italiani, però in questo senso, in questo caso in senso quasi punitivo, cioè prima gli italiani studino le leggi, poi gli immigrati. Ma qui mi sa che è più questione dello Stato che ce lo deve insegnare, sì. Perché io nel mio percorso formativo scolastico, praticamente io le leggi italiane non le ho mai imparate. Matteo, è vero, cioè, però qui si sta parlando, c'era l'educazione civica una volta a scuola, io l'ho fatta, non c'è più. A che età si fa e che cosa si insegna? Le scuole medie, e quanto dura? Alle scuole medie sono quelle cose che le impari e ti rimangono dentro, quello che impari a 12 anni non lo impari mai più nella vita, cioè è addirittura più forte. Sì, ma non un si tempo può pretendere si che imparino le leggi a 12 anni. Sì, però il tema non è, credo, imparare gli articoli del codice, è imparare le regole della convivenza, i concetti della democrazia, gli articoli base della Costituzione, i principi, cose generali, perché spesso parliamo di immigrati che vengono da paesi nel mondo dove tutto questo non c'è. Peccato per loro, bene per noi che ce l'abbiamo queste regole, quindi condividerle, insegnargliele per condividerle perché le rispettino. Poi che gli italiani non sappiano le leggi, è vero Matteo, ma non è che tutti possono andare a studiare giurisprudenza all'università. Grazie, buona serata. Borsa, torniamo subito dopo 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, 19:34 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oh, tra le altre cose, questa sera mi piacerebbe che ci chiamaste da Padova. Perché io non ho più notizie della questione delle biciclette. Possono entrare le biciclette nel centro storico di Padova? No. Sì, perché sapete che il sindaco Bitonci aveva inizialmente con una ordinanza accomunato le bici agli scooter, impedendo di entrare nelle due piazze principali dove c'è il mercato e le strade circostanti. Poi lo abbiamo intervistato anche noi, ha fatto una parziale marcia indietro dicendo no, era una sperimentazione, perché dopo un primo fine settimana di chiusura alle biciclette, commerci ridotti del 50%, gente scandalizzata perché come non si può entrare il sabato, la sera, la domenica mattina in bicicletta nel centro di Padova, che male si fa. Allora, amici di Padova, adesso si entra o non si entra con le biciclette in città? Questa cosa mi sta a cuore particolarmente, anche perché dobbiamo dirlo un punto su questa vicenda. 800 24 00 24. Alberto da Como, buonasera. Sì, buonasera Maurizio, volevo fare una riflessione sul Erdogan. Sì. Ma lei pensa che siamo così ingenui nel pensare che tutto il teatrino che è stato messo in piedi non è stato fatto apposta per delegittimare tutti quanti i suoi avversari, perché in due giorni fare 40.000 arresti vuol dire che c'era già una lista preparata da tempo. Seconda cosa, l'Europa ha piegato 30 secondi per fare l'embargo alla Russia. Cosa ci vuole a fare l'embargo alla Turchia? Terzo ragionamento, stamattina sentivo che Erdogan molto supponentemente ha detto che l'Europa per 43 anni l'ha tenuta alla porta. Io spero che l'Europa la tenga alla porta per 443 anni, non per 43 anni. E con questo concludo il mio ragionamento. A proprio telegrafico, così va bene. Alberto ci ha lasciato con queste tre perle di saggezza, lasciamole lì, vediamo se vengono colte da qualche altro ascoltatore. Andiamo con Oscar da Milano. buonasera. Senta, io ho sentito proprio così di sfuggita il discorso della Gruber, quasi in finale, dove diceva che una integrazione, parlava di un'integrazione. Sì, valida. Gli ho chiesto se lei era ottimista o no. Ma esatto, ma guardi, cioè, mi sembra talmente banale, l'integrazione valida, ma che cosa vuol dire? Cioè, lei è così puntuale e valida di che cosa? No, lei ha detto, io le ho chiesto se lei era ottimista o no sul futuro di questa integrazione, e lei ha detto, scusi, con gente che non si vuole integrare, basta. Guardi che è un detto coranico dove dice che dove c'è un musulmano là c'è Islam. Sì. Quindi loro ci considerano degli idioti e non ci considerano per niente. Ma noi non è tutto come dice lei. C'è quello che dice lei, ma c'è anche quello che dice Lilly Gruber, la quale tra l'altro non ha detto dobbiamo, vogliamo, ha detto io resto ottimista, lo sono di natura, però non sarà una passeggiata. Non è facile perché dobbiamo difendere la nostra storia, i nostri diritti, la nostra democrazia, i nostri valori, i valori non negoziabili, che è chiaro quello che diceva Lilly Gruber, non sono la questione religiosa, Islam contro religione cristiana, ma sono i valori laici, cioè della democrazia, della tolleranza, della libertà. Queste cose vanno difese, diceva la Gruber, ed è importante tanto quanto l'integrazione, difendere quei valori. Io sono d'accordo con lei, Oscar. Lei ha mai sentito parlare dei Sufi? Certo, come no? Ho anche partecipato ad un rito Sufi a Istanbul. Ma quando mai hanno mai parlato? I Sufi sono il profumo dell'Islam. Sì. Guarda caso che però l'Islam è sempre rappresentato dalla parte più dura. I Sufi sono una minoranza che non ha mai avuto diritto di parola. Allora, l'Islam ha voluto significare una nazionalità, beduini sbandati, bande che c'erano nel secolo, Oscar, scusa, è un movimento nazionalista. Oscar, però scusa, restiamo in Turchia. Io ci sono stato, ho visto di tutto, ho visto donne velate integralmente, poche, qualcuna con il velo sulla testa, molte donne completamente scoperte, ragazzi che bevevano birre alcolici nei locali ed erano ultra laici, ma erano di religione islamica. Questo è anche l'Islam, cioè non è tutto quello che dici tu, non è tutto così, non si può ridurre tutto a uno, non è uno né l'altro, hai capito? Non sarà così. Noi dobbiamo sapere che cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare con queste persone qua, se no veramente noi saremmo morti. E secondo me forse sì? Se noi insegnassimo veramente che cosa è stato l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, forse noi potremmo avere un po' più le idee chiare su queste persone qua. Guarda, con me sfondi una porta aperta. Insegnamento di storia delle religioni a scuola, anziché ora di religione. Insegniamo la storia delle religioni e non l'ora di religione cattolica, che secondo me non serve a nulla, oltre ad essere un'imposizione nei confronti di chi, come per esempio io, non mi interessa, ma la storia delle religioni invece mi interessa. E spero che mia figlia, che ha 4 anni, come dici tu, le possa studiare per conoscerle, per capire le differenze che ci sono. Altrimenti parliamo dell'Islam, che è una cosa che non conosciamo, tra l'altro. Ma una religione che nel processo storico non si è secolarizzata è da far paura. È chiaro questo? Sì, Oscar, fa paura il fatto che non si sia secolarizzata. Un processo di secolarizzazione minore di quello che ha avuto la religione cristiana c'è stato. In Turchia adesso sembra che si sia interrotto ed è grave, sbagliato. È un effetto negativo di questa pagliacciata di colpo di Stato. Chi l'ha messo in piedi? Forse Erdogan. Sicuramente adesso ci ha portato fino a questo punto. Però non dimentichiamoci che la secolarizzazione riguarda anche noi, la nostra religione. Non sono passati molti anni da quando da noi la religione non era un valore, diciamo, negoziabile, ma era un valore assoluto. Sì, ma voglio dire, scusi, già il fatto dell'umanesimo è un processo di secolarizzazione fondamentale. Sì. Ah, ecco. Ti riferisci alla storia, alle radici proprio storiche del pensiero occidentale. Va bene. Il processo dell'umanesimo. Sarebbe lungo discutere di questo. Comunque, grazie, ecco. Oscar, per la qualità del tuo intervento. Buono, secondo me, interessante. Adesso parliamo di futuro. Corri e va per la terra, corri e va tra parlano di futuro e di un grande risultato della scienza e della tecnologia italiana, perché l'Istituto Italiano di Tecnologia ha annunciato da poco che è pronto e può essere prodotto in serie e presto addirittura commercializzato R1, il robot personale, come dobbiamo chiamarlo? Your Personal Humanoid. Ed è con noi Giorgio Metta, coordinatore del progetto. Buonasera. Buonasera. Coordinatore e direttore di R1 all'interno dell'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. R1, R come rivoluzione? Per cosa sta questa R? Sta per robot. Per rivoluzione, potrebbe essere un... Tutte e due. Sì, è molto bello. Che aspetto ha R1? Perché questa è una cosa, anzi la parte più importante è i costi, perché voi dite lo faremo in modo che non costi tanto, però a questo ci arriviamo. Intanto che aspetto ha? Allora, abbiamo fatto un disegno, diciamo un lavoro di progettazione e disegno importante, lavorando anche con delle ditte che si occupano proprio di design industriale. Questo per dare al robot un aspetto gradevole. Sì. E di fatto il robot è pensato per arrivare un giorno magari nelle nostre case e vogliamo metterci in casa delle cose belle. È bianco, quindi è molto di design, sì, è un po', ovviamente fa venire in mente anche delle cose così un po' inquietanti, perché insomma, è sempre una macchina che fa tante cose. Però di questo aspetto un po' più da incubo ne parliamo dopo. È bianco, ha la testa nera, somiglia un po' al suo, come dire, progenitore iCub. Sì, abbiamo cercato di mantenere alcune delle linee per ricordare iCub in qualche modo, ma fare qualcosa che non sembrasse ovviamente un robot bambino, perché poi l'idea è che sia un robot inserviente, ovviamente non, l'immagine del bambino non andava tanto bene. Sì. Ma parla R1? Parla? Può parlare, può sentire. E che voce ha quando parla? E questo si può customizzare, nel senso che a seconda dell'utente si può scegliere. Si può personalizzare. Tipo, sì, io non so, mi piacerebbe che parlasse con una voce maschile, femminile, adulta, infantile. Sì, che tipo di criteri possiamo chiedergli? Si può chiedere quasi tutto, perché la tecnologia della voce è una cosa tutto sommato assodata, quindi non è complicato. Non è tra le cose più complicate. No, forse no. Più complicato è la presa, il fatto che voi dite ha la mano che riesce a prendere, che è una cosa che lo differenzia dagli altri robot che ci sono già in circolazione. Sì, abbiamo pensato che facendo un robot dovesse essere anche utile, non solo come, diciamo, per fornire delle informazioni, ma dovesse essere utile anche per fare delle cose, perché se deve essere il nostro aiutante deve avere delle mani che consentano come minimo di aprire gli sportelli, i cassetti, di prendere degli oggetti, di spostarli, di aprire una porta. Sì. Quindi, perché tutti poi immaginano, sognano il robot che fa i lavori di casa, diciamo chiaramente, perché uno pensa ovviamente a mille tecnologie, a cose di avanguardia. Voi avete pensato al fatto della memoria che sviluppa, dialoga, impara, apprende da quello che facciamo noi. Poi però uno banalmente dice: cosa vorrei che facesse? Che mi pulisse casa. Certo, ma pensiamo che infatti quella potrebbe essere un'applicazione non semplicissima, però una volta che si riuscisse a fare, sarebbe sicuramente la cosa più richiesta dai potenziali. Ecco, a cosa serve? Cioè, a cosa l'avete pensato? Per cosa l'avete pensato? No, l'abbiamo pensato esattamente per aiutare in casa. Inizialmente probabilmente per persone che hanno magari difficoltà di movimento, e quindi fa comodo avere un aiutante 24 ore su 24. Sì. E poi però, perché no, per tutti. Per cui a tutti farebbe comodo avere un aiuto, una mano sempre disponibile. Sì, che cosa è in grado di fare allora in termini di aiuto? Cioè io posso chiedergli di fare, non lo so, abbiamo immaginato degli scenari, ovviamente sì. I software devono essere ancora perfezionati, però sì. In questi scenari abbiamo immaginato preparare del cibo, portarci o preparare, non so, un drink, del caffè. Cioè posso chiedergli di farmi un caffè? Esattamente. E lui si muove, va, sa dov'è il caffè, prende il caffè, riempie la macchinetta, la mette sul fuoco, fa queste cose? Devo insegnargli dove sono le cose, sì. Qual è la mia macchinetta del caffè, com'è fatta, e lui dal momento che glielo insegno la riconosce e poi quindi è in grado la seconda volta di fare da solo. Ah però. E poi? Poi abbiamo immaginato applicazioni di... diciamo, trovare le cose che ho dimenticato, piuttosto che sempre per il discorso dell'aiuto domestico, ricordarmi che devo prendere ad esempio le pastiglie e portarmele, dare l'acqua alle piante, da mangiare al gatto, insomma tutta una serie di compiti che possono essere utili in casa, raccogliere e mettere in ordine delle cose, quindi tutta quella varietà di compiti abbastanza semplici tutto sommato, che però se fatti con continuazione ci danno un ulteriore senso di conforto a stare in casa avendo appunto questa mano robotica che, sì, che senta, ci aiuta. Voi dite nel giro di poco tempo riusciremo a produrlo in serie addirittura. Sì, adesso ci dovrebbe essere una fase di ingegnerizzazione, perché noi abbiamo fatto il prototipo, la fase successiva è proprio poter ingegnerizzare per fare la produzione, è una fase che si fa sempre sì, in tutti i prodotti. Per questo stiamo cercando degli investitori, perché i costi comunque sono elevati, bisogna fare tutte le certificazioni, il famoso marchio CE per dirne una, però sì, tutto quello che serve per certificarlo, e dopodiché si potrà andare in produzione. Andando quindi in produzione, non avete ancora trovato l'investitore? Voi siete, ripetiamo, un istituto italiano di tecnologia, siete un centro di ricerca, uno dei più importanti, certo, forse in questo momento il più importante, certo, insieme al CNR e ad altri, e voi sviluppate il prototipo, però chiaramente l'industrializzazione, la produzione in serie non è compito vostro, ma non è che poi vi fate, tra virgolette, fregare l'idea da qualche mega gruppo straniero? Ma nel senso, noi tentiamo di far partire delle nostre start-up, quindi di creare proprio delle company, possibilmente in Italia, sì, e con queste si arriva poi a fare degli accordi anche col megagruppo, perché no? Perché poi no, gli accordi sì, però siccome non sarebbe la prima volta che l'Italia inventa e produce delle innovazioni tecnologiche importanti, poi ahimè, nel momento in cui c'è da fare il grano, tanto per essere certo, molto concreti, certo, arriva qualche mega gruppo. Allora, noi su questo robot abbiamo già 5 brevetti, sì, la forma stessa del robot è un brevetto, quindi diciamo abbiamo la protezione della proprietà intellettuale, ce l'abbiamo, per cui da questo punto di vista siamo tranquilli. È chiaro che per andare a una vera distribuzione, produzione, poi distribuzione, bisogna essere associati con qualche gruppo potenzialmente globale, in modo da arrivare qualche grande player. Tra l'altro non mancano, perché Apple ha messo un centro a Napoli, Microsoft ha appena annunciato una nuova sede a Milano, vedremo. Certo. Io prima parlavo di aspetti inquietanti, no? Perché a me personalmente è una sensazione che suscita, cioè penso a dei film, a delle suggestioni di questo tipo, all'incubo del robot che diventa indipendente, che acquisisce una sua personalità, è un classico dei film, no? E poi certo, fa da solo, è uno scenario, cioè quanto può essere indipendente questo robot dalla volontà umana? Ma per questioni meramente tecniche il robot non sarà indipendente, perché in realtà vorremmo che fosse un pochino più indipendente, ma è molto molto difficile realizzare il software che consenta appunto questo grado di autonomia. Molto probabilmente il robot sarà controllato con una serie di app del tutto simili a quelle dei cellulari, sì, con le quali si chiederà al robot di fare un particolare task. Il robot, per cui quel task lì, quel compito specifico lo farà in maniera indipendente, dopodiché finisce e ci chiede che cos'altro deve fare. Non è in grado però di imparare tutto in maniera completamente autonoma, quindi sarà abbastanza, se vogliamo, limitato in un certo senso, però è una limitazione che è rassicurante, per cui non dobbiamo preoccuparci appunto dello scenario dove il robot decide. Però di fare... c'è questa possibilità che è data teoricamente dal fatto che il robot impara, apprende, l'autoapprendimento. Quindi teoricamente io potrei pensare che impara, a furia di imparare, poi chissà dove potrebbe arrivare. Ma il problema è che le cose che conosciamo di intelligenza artificiale al momento ci consentono di imparare un compito specifico dentro un dominio che è stato definito a priori dal programmatore. La macchina non è in grado di uscire da questo dominio, quindi se io l'ho spiegato a grandi linee come imparare a fare il caffè, per tornare all'esempio di sì, prima, da quel dominio lì non esce, quella applicazione particolare imparerà solo a fare il caffè. Lo farà a casa mia, che magari è diversa da casa di un'altra persona, però da qui non si sposta. Questo è quello che sappiamo fare al momento con l'intelligenza artificiale che siamo in grado di realizzare. Prezzo di costo avete stimato che potrebbe scendere fino a? Fino a 3.000 euro il costo di una TV di nuova generazione, qualcosa di questo tipo. ci vorrà del tempo per arrivarci, perché chiaramente dipende molto dai numeri. Più se ne fanno, più si riesce a ottimizzare il prezzo e quindi a farlo diventare poco costoso. Va bene, va bene. Grazie Metta, in bocca al lupo. Prego. Per questo progetto R1 dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie, andiamo con gli ascoltatori. Maurizio da Padova, buonasera. Buonasera. Prego, Maurizio. Allora, lei chiedeva per quanto riguarda il sindaco Bitonci, sì, che cosa ha fatto per le biciclette. Ah, praticamente, certo. Praticamente ha aperto alle biciclette e ha fatto anche una specie di apertura alle moto. Ah, quindi è cambiata piazza, l'ordinanza, è cambiata abbastanza. È cambiata abbastanza per questo. In una piazza adiacente, sì, che era dedicata praticamente a molti spazi per portatori di handicap e mezzi comunali, l'ha dedicata addirittura alle moto, in una sessantina di posti. Un parcheggio, questo sì, l'aveva stato annunciato, sì, un parcheggio per rendere più semplice la vita del... Per avvicinarsi, sì, di più al centro, sì. Per il resto poi è rimasto così com'è. Comunque ha allargato la maglia, per esempio. Ma è vero che all'inizio, dopo il primo fine settimana, ci sono state un po' di contestazioni? Ci sono sempre da parte dei commercianti, spesso anche ingiustificatamente, quando si tenta di chiudere alcune zone del centro, perché poi alla prova dei fatti le zone pedonali non sempre, magari, perché ci sono anche cose fatte male, errori eccetera, o limitazioni eccessive, però poi spesso si scopre che è bello passeggiare, si fanno gli acquisti e i commerci non calano. Però a Padova inizialmente c'è stata un po' una levata di scudi contro il provvedimento, o no, di Bitonci? Diciamo che togliere le abitudini alle persone è sempre un po' problematico sotto questo punto di vista. Sì, però io ho, sì, un'attività in centro, posso parlare in prima persona per la mia zona, che non è lontana. Io sono in piazza Garibaldi e la precedente amministrazione, giustamente secondo loro, hanno messo su delle telecamere, e il giorno stesso che hanno messo giù queste telecamere, dalle che attiva 24 ore su 24, ho avuto un crollo. Però è una bella posizione, si lavora lo stesso. E il problema è anche... Ma le biciclette, altro, secondo lei, sono un pericolo? Perché questo era quello che emergeva dall'intervista con Bitonci. Le biciclette in certi punti sono veramente pericolose, perché ad esempio, sì, proprio di fronte alla mia attività c'è una banda di marocchini che spacciano proprio di fronte alla Rinascente, non stiamo parlando... Ma che c'entrano le biciclette, però? E spacciano con le biciclette. Ah, vabbè, ma questo però è un reato, perché... Di là. È questo però l'errore, vedi, Maurizio, ha ragione a dirlo, perché i vigili dovrebbero intervenire, in questo caso la polizia, perché se c'è spaccio è un reato. E quindi ci vuole il controllo della polizia, quindi prendersela con la bicicletta in sé per sé col ciclista è veramente riduttivo. Grazie, comunque, buona serata. Pietro, prego, da Bergamo. Arrivederci. Pietro. Pronto, Pietro? Buonasera. Buonasera. Niente, io ne volevo... Però, bella idea quella dei robot. Allora posso prenderne uno e mandarlo a lavorare al mio posto? Sì, senza pagargli lo stipendio e non sarebbe sfruttamento, credo. E io vado in ferie tutto l'anno, no? Perché no, Pietro? Dipende che lavoro fa. Se R1 impara a farlo... E poi alle persone cosa facciamo fare? E le persone faranno altro. Pietro, cosa voleva intervenire? Su questo voleva parlare? Volevo dirle prima, che il ragazzo, sì, che diceva delle leggi da imparare così. La Costituzione non la si impara a scuola, purtroppo. Io a un'età in cui il libro di educazione civica compravamo nuovo, lo portavamo nuovo per l'anno dopo e così è sempre andato. Perché se io penso... Cioè lo comprava e non lo apriva mai, perché non... Mai, non ce lo faceva mai utilizzare. Sai che io mi ricordo il mio, era di colore verde il mio libro, io me lo ricordo benissimo, quello di educazione. Era uguale al suo? Ma lei quanti anni ha? 58. E io sono un po' più giovane di lei, può darsi che avessimo lo stesso libro comunque. Io però mi ricordo di averlo aperto, sinceramente. No, pochissime volte, guardi. Ma torno al di là di imparare, sì, le leggi. La Costituzione bisognerebbe insegnarla a scuola, come fanno in altri stati. Cioè, perché se uno la conosce, la applica. Io sfido chiunque a fare una gara a vedere chi la sa. Va bene, hai ragione, Pietro, è vero. Bisognerebbe... la scuola dovrebbe fare talmente tante cose, però, che dovrebbe durare 12 ore al giorno, perché ogni volta che c'è una questione si chiede alla scuola di occuparsi. Però insegnare la Costituzione, i principi base, non sono neanche tanti gli articoli, si potrebbe anche fare, dove andiamo? Dino da Biella. Sì, buonasera. Sera, Dino. Senta, io volevo solamente dire una cosa molto semplice. Nell'ufficio dove lavoro cioè, ci sono tre riproduzioni e una quarta vuota. La prima c'è la battaglia di Poitiers, vinta da Re Carlo Martello, e siamo nell'età di mezzo. La seconda è la battaglia di Lepanto, vinta dalle truppe, cioè dalle navi venete e dalla coalizione. Ovviamente. Sì, io mi sto addormentando, Dino. Cosa sta succedendo? Di cosa sta parlando? Scusi. Siamo all'assedio di Vienna, sì. Vinto dal principe Eugenio di Savoia. La quarta è vuota. Cosa significa? Che deve ancora arrivare. Speriamo di no, Dino. Buona serata. Speriamo proprio di no. Ma di cosa sta parlando? Della quarta guerra mondiale. Dove andiamo? Maria Paola da Milano. Sì, buonasera. Ecco, io vorrei parlare un attimo della nostra religione, che è sempre stata una religione all'acqua di rosa. Io mi ricordo da bambina, non si studiava, si andava in chiesa, si accendeva il cero, sì. Insomma, qualcuno ci aiutava. Abbiamo avuto dei grandi papi, delle suore che dirigevano gli ospedali. Era tutta una gioia. Io sono cresciuta all'oratorio, come tutti io no, i bambini. Io no. Ecco, allora dico una cosa. Sì. Di fronte a questi momenti, dove purtroppo è capitato un papa che è così, insomma, questa religione qui, c'è sempre Gesù per tutto, per tutto il mondo. Ecco, io noto un particolare. Maria Paola, non abbiamo capito molto, però dobbiamo salutarla. È tutto, grazie, ci risentiamo domani 18:30-20 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizio, un ringraziamento a Leonardo Siligato, Riccardo Poli, Riccardo Buccero, Pietro Lacorte in regia. Ciao a tutti, buona serata. Ascoltateci anche in podcast e andate a cercare la pagina Si può fare sul sito di Radio 24. Ciao, domani.